funziona, ci sono le leggenti della BB, quindi sai, ci vuole inserire, no? In mezzo alle palle, Sciacquino, Gerzling e Guru, e Maudon va proprio in buona mattinata oggi, capito? Ma io sono arrivato in pressa, quanto con te si posso discutere a tavolino. Come la gente si può discutere a tavolino o fuori a tavolino? Se ti manca che cosa giochiamo qui? Ma poi da te. O parli o ti fatto avviare, gente. Vai. Lingui il culo. Davvero. Ehi, purtroppo, cazzo. Sa, tenete, secondo me ci sono solo per numero queste persone, cazzo. E rompere le palle a chi sta lavorando. E basta. Dirigente tecnico, cazzo. La domanda è nel impianto è stato finito l'anno scorso, non so che ha manco quanto va una pompa di ricerca tecnica, grazie, in mano a voi, diremo, Santa Maria Madre Nostra, grazie. Oh, Maria Madre, per carità, davvero, non mi ricordo che cazzo non manda niente, non comprende nulla. Una sigla pagata del pianta le vive, ma la pannuma le basta. Perché l'ho gratuito alla Tarrafi, fa fare la brutta figura. L'ho detto perché non mi tu qua, che voleva lasciarmi sotto la mia condizione, però l'ha fatto tutto il giorno. Ha fatto il cervello, te lo mai occhi. Ci sto la partita condotta, non ti hanno vedi tu. Che era bene il pianto nuovo. Che ha fatto aprire tutta la motorizzata attaccata a 980 litri al secondo, mentre passava la già stata la condotta in due. Imbecille, cazzo. Ma carità, io ci sono rimasto in gamba, a patarne, sono buone, basta. A numero e patarne, buco. Da 3 anni fa, da 3 anni fa. Io... Lascia perdere. Se a parlare di cose di lavoro c'è da aprire un libro, ma è meglio sto zitto. Io faccio il mio, ma non voglio che nessuno me lo parli per me. A chi è che devo giocare, ma lo faccio con un capo per non ribiti. Quindi, e ti ho già detto l'altra volta che sono nato da solo. Non ho avuto bisogno di farci incubare nessuno. Ho fatto corsi, contro-corsi, aggiornamenti. E vabbè, io ti chiedo che sei buono, su. Perché le mie mansioni sono superiori a gente che c'è 30 anni lì dentro, che sanno solo scrivere, e boh, con la penna, e basta. Se li metti a dirigere non sanno manco dove cazzo portano i piedi. E fortunatamente c'è gente competente che non c'è bisogno di prenderla a braccetto, che già sanno quello che devono fare tu, se no... Se lui che va a vedere tu, ci arrivi di qua, mano buono siamo da giudizio. In mano buono, va. Lascia verde, lascia. Mi ero venuta mano, ma te si è venuto ghietto, che ho da passare su te, sono venuto un battatracchio, una testa in chiesa, tu pure, sempre con questa storia della prova, delle prove di questo nuovo impianto. Ghietto, cioè ti posso mettere di me, cosa c'è? Ma tu vuoi chiedere scusa per la settimana scorsa, sai? Sono stato un po' troppo impulsivo, non ti preoccupare, non è successo niente, però ricordi che quando ti dicono che qua è tutto a posto, perché le prove le stiamo facendo misurate per non poter creare problemi all'impianto. Ascolta me, tu non ascoltare gli altri, capite? A chi ha mandato una prova, lui era su in conduzione, evidentemente quando abbiamo attaccato una pompa vecchia, avviato una nuova, una da 120 litri, la nuova da 180 litri al secondo sempre, e quindi evidentemente al passaggio della pressione d'acqua qualcosa, che c'è una tubazione nuova, è andata a istruire il misuratore di portata, lui si è visto il misuratore di portata a scendere completamente al vero, cade si porta a botte. Si sta svoltando tutto, è un casino, state facendo un casino, quella... gente che non sanno le corde ai piedi e va avanti, capito? L'operaio che svolge il suo lavoro con un certo criterio non viene mai ascoltato, capito? Verrà solo ascoltato quando proprio le cose sono evidenti, capito? Solo quell'attimo lì viene ascoltato l'operaio. Viceversa, sembra che lui ignori non l'operaio, come che il lavoro lo stia facendo l'operaio. E non so se è un operaio impulsivo in quell'attimo, è anche una cosa che può passare, perché magari sa. Un colore, non si scherza, è un bel fiore di Sassari, parte tutto da lì, ci sono 20 persone in conduzione, non è una cosa da giocare. I responsabili che ci sono sono quelli da castagnare, capito? Stanno seduti dietro la scrivania e vengono considerati i dirigenti, non quelli che cazzo sanno tutto, non sanno niente. Mentre quelle persone che veramente sono in conduzione, che mandano avanti l'impianto, che mandano avanti tutto il sistema e il processo dell'impianto, quindi non contano niente, quindi sono zero sotto zero, sono dei numeri. Proprio di questo parlavamo stamattina con alcuni dirigenti di queste aziende che sono venute a collaborare l'impianto, che infatti questo cazzo di carrozzone c'ha solo numeri, non c'ha altre persone che possono essere valide e rispondere ai comandi veri e propri di chi dirige la baracca. No, sono numeri, capito? Sono numeri. Perché tu le prospetti un problema, un piccolo problema, una trovata, tu le capire se rispondo. Ah, ma io non sono competente in questo settore, cosa devo fare? Non aspetta che provo a chiamare quell'altro. Allora io mi sento di rispondere che quello che tu devi chiamare è meno competente di te. Quindi tu sei un numero, non sei niente. Sei una persona, non vai nulla, zero. Quindi devi stare al tuo posto, fare fotocopie e basta. Fare l'ufficio protocollo, protocollare la roba che ti do io, che mi scarico, a chi mi ha fatto l'ugurio, ho fatto il travaglio, capito? Io faccio anche lavoro di cancelleria, perché da sera, tutta la sera in ufficio ho fatto un rientro perché non sono riuscito durante la settimana a farmi i rapportini e mi sono andato in ufficio a farmi i rapportini, a finirmi tutta la documentazione che devo presentare per poter fatturare e preparare le aziende. Invece c'è gente che si sta lì grattandosi i coglioni tutto il giorno, leggendo il giornale, uscendo 5, 6, 7, 8 volte, 10 volte, andare a bere, senza produrre, senza fare niente. E a me mi metti qua, dopo questo, alle 6 del mattino in giro, in macchina, a destra e a sinistra, mi metti anche di rientro per potermi terminare tutta la mia documentazione. Non c'è nessuno a fare, capito tu? Non c'è nessuno. O se c'è non lo mettono, che sono tutti cuffati, lingui guru. È proprio vero, sono tutti cuffati, lingui guru. Sì, perché il loro lavoro è solo per leggersi il giornale, scandare le piazze del banco, le CD. E rompere le palle a chi sta lavorando, ripeto. E rompere le palle a chi lavora, soprattutto. Io mi hanno poco a rompere male. Io lo vedo anche al giro bumi, ti ripeto, non c'è niente da perdere, niente da temere, non c'è né responsabile né nessuno che mi ammazza le volte, perché io giro le spalle e me ne vado, non ho più problemi. Quando mi guardo una volta fanno il richiamo, ma non sono permessi più, perché il richiamo risposto io, molto doverosamente. Che alla fine siamo arrivati tutti e due a Cagliari davanti alla direzione generale, dice allora, questa è la sua, e questa è la sua, come la mettiamo con queste lettere? Non vorrei come la vuole mettere, per me è da cestinare, immediatamente pure, perché altrimenti canto, e canto con così mi sentono tutti. Se il cazzo ci permette a me di dirmi che ci arriva, ma che tu? Va, ho fatto una cagata, va. Stavo in bocciù, cazzo, ma in corsa che ci portiamo a pulire il mio dirigente, cazzo, mi raccomando a me. Va, tocca a te. Mi piacere di più. Rimani come sei. Ciao, arrivederci. E ho giubilato la macchina mia. E me ne sono sceso a truccolare a farmi le prove di carico della bomba, assieme a tutti i tecnici elettricisti, quelli che c'erano, che sono stati convocati. Non mi ci credono tu. A me non me la frutti manco barbare. Un giorno qua, dicevo, ma non lo so, tu ci immaginava e tu ti fai il giro. Dicevo, ma immaginava, sono andato venerdì, ci vai anche domani. Qual è il problema? Abbiamo saltato martedì, ci vai domani. E se ti ha detto parte, se ti ha detto non parte, con l'Argentino dentro l'Argentino. L'importante è che tu vai a ragionare. Allora lui, ce la facciamo fare, ci sono due telefono, vai a girarmi le balle. Beh, purtroppo ve lo dire così, bisogna farsi anche un po' rispettare, ma che fanno che stiamo una proprio scadere, allora stanno proprio scassando un po' i presidenti proprio a vero. E cos'è? Se devo essere uno si fa quel turno, no, non esiste dubbio. Non esiste dubbio, però tu ti un po' le unghie e farsi sentire, se no, da un punto di vista un braccio. Ehi, non so la canassera. Non ci ho fatto venire in classe perché dovrebbe inizialmente seguirmi tutti i bacini d'utenza. Dopo c'è un tempo siamo andati ai sollevamenti. Dai sollevamenti siamo in condotta, adesso dalle condotte sto facendo anche altre cose tecniche che non mi comportano. Va bene, non c'è problema. Va bene così. Ma si già si su Marco, o se non va del baffo a me, è passato a Marco. Ci mettono su con un altro, allora mi piatto a chiudere vive. Capito? A chiudere vive. Fare le cose che devo fare. Quando poi ci sarà qualcuno che mi dirà lì da oggi devo fare questo, ma lo devo mettere per iscritto, perché per telefono non faccio più niente. Infatti proprio oggi ho detto, se avete qualcosa da dire in merito alla nuova sistemazione dei turni, mettetelo per iscritto e prendetemi la bacheca, la giudito anzi. Ci ho niente da dire, ma lei c'ha in questi giorni una faccia di cacca, ho detto quel più uscì, che non mi piace per niente. C'è qualcosa da dire, ma lei che ha subito in faccia. Ciao. Il mio turno è finito qua, arrivederci. Matri, arrivederci. Ci vediamo domani a concorrere. E gira mia balle, due la capolli in chim. Sei mai così, grazie, è così, no? Rispettare sì, ma fino a un certo punto, allora, che tu mi devi proprio voler bene in andare a bordo, ma non esiste dubbio, assolutamente no, assolutamente no, non esiste dubbio. A chi non diceva quando andavate meglio, tutti vanno a dubbio e mi cassi pure il coglione a un certo punto. Io avevo giudizio, tanto che non mi possono fare niente a me intanto, nessuno mai mi può fare niente, perché io non sono entrato nell'ufficio di collocamento, andato in corsi. Ho arrivato un concorso da giovinto, quindi la mia responsabilità vale molto più di quella degli altri, ma molto più. Perché c'ho gente assieme a me e c'ho molta, devo fare molta attenzione a quello che faccio e come mi muovo. Perché c'è sempre il pericolo, perciò. Quando gioco con tutti i ragazzi, si era tutto anche chi mi fa un numero, come ti sono abituato a vedere, io non sono un numero. Quindi, sono convinto di fare uscire fuori testa le persone, si arrangiano. Oggi dalle 7 di stamattina abbiamo parlato lì ai punti, e c'è abbiamo una convenzione, e poi alle 2:30 lo diamo a lavoro. Siamo usciti all'una, alle 2:30, di nuovo a tric e track, in gabbina, mentre esce, tacca, prova, tira, molla, batte la mano, segui qui, fai lì, fai là, tanto la prima arriva a casa, il gatto è, si squilla lo campanello, quindi un telefono in mano, si tende anche tu, c'è il telefono in mano, scende con il gatto, La responsabilità è la mia, non è la sua, capito? Urgendo già faccio qua. Davanti, non so come è lì. Se c'è qualche cosa, ne sono responsabile io, non tu. Da dopo. Tanto vai tu l'hai diritto, travaglio, il responsabile sei tu. Ma la mano, se come è lì, e non lo posso, come ti mi pare di altri io travaglio. Ho fatto uscire, quando vai, cattacate la bozzeretta l'ha diritto la tari. A cattare la bozzeretta l'ha diritto. Tanto posso sempre non mettere di qui. Che schifo che sei, per carità. Vabbè, pazienza. No, io vado. Non è maledetto che non sono venuto a Sassari, ma quasi quasi me ne sono pentito, perché a Sassari avevo tutte le mie zone, ho sempre lavorato bene, sono stato liscio. Ho voluto provare il brivido, ma non sapevo che qua a Sassari ci fossero persone del genere. Ripeto, non ho niente da invidiare a nessuno, ma qualcuno sicuramente invidia a me. Forse per quello che faccio, non so, però io non ho nessun problema. Faccio l'assistente da 1998, quindi non ho altri problemi di fare mattanamento del vetture ieri. Incarichi che mi hanno dato, li ho sempre portati a termine, ho sempre fatto il mio lavoro con molta dignità. E soprattutto rispettando sia gli operai che quelli più in alto di me. Però questa gente è convinta veramente che quando l'aino va l'ari, non ha l'aino. L'aino va a pizzona e basta, non ha l'ari, no. Thank you. costumi sotto, non riesco a anticipare il privato con. Mi ha pagato. Ma buon, tradi, mi sa che io chiudo e me ne vuoi nanna. Sentivo un fuscio, poi sparita la modulazione, quindi bisogna mettere bene a posto l'antenna, altrimenti è un casino, capito? Allora ti saluto, buonanotte, anche io non mi trattengo molto perché sono stanco molto, e bisogna andare a riposare, se no domani sono la bambina in mano ancora. Essere un po' luce. Questa mattina ho sentito chiare, mi ha fatto passare un paio da un collega, grazie a un paio di regalo, ovviamente ha forzato troppo, e non fa, ma sono già preparati, mi riporto, e così sono tranquillo, ma è mai naturale, non ti trattengo. Ciao, buonanotte, e ci sentiamo. Ci sentiamo più avanti. Comunque domani mattina se vuoi caffè ce lo possiamo prendere. Dai, positivo dai. Ci vediamo e ci prendiamo il caffè domani mattina. Va bene Claudio, dai. Passa una buona notte. Saluto a te e guerra. E saluto anche a Mauro. Passa una buona notte Mauro. E tutta la migliore. Ci vediamo domani mattina al caffè, Claudio. Grazie.